La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 19 settembre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E dopo un mesetto di pausa siamo finalmente ritornati on air per parlare ovviamente di scienza e per intrattenervi sulle ultime notizie scientifiche dal mondo della rete. Questa settimana parleremo fondamentalmente di una cosa molto particolare, si chiamano microRNA e ne parleremo col professor Massimo Negrini del Dipartimento di Medicina Sperimentale di Ferrara. Buongiorno professor Negrini. Buongiorno. Professor Negrini, quando cominciamo a parlare di microRNA forse non è molto chiaro perché molte volte sentiamo dire del DNA, la doppia elica del DNA, Watson e Crick eccetera eccetera, ma effettivamente che cosa sono i microRNA, che è poi una scoperta abbastanza recente? Dunque, i microRNA sono dei piccoli, anzi piccolissimi RNA di circa 20 nucleotidi, per anni si sono considerati del materiale di scarto della cellula, mentre invece negli ultimi anni, direi negli ultimi 5-6 anni, si sono dimostrati essere assolutamente fondamentali nella biologia della cellula. Infatti sono dei piccoli RNA che regolano l'espressione degli RNA messaggeri, cioè quelli di cui lei parlava prima, e quindi in ultima analisi sono in grado di regolare tutte le funzioni biologiche all'interno della cellula che sono modulate da questi, dai prodotti degli RNA messaggeri, cioè dalle proteine codificate dagli RNA messaggeri. Se lei pensa che geni che codificano per RNA messaggeri ne sono noti 25.000, mentre invece di microRNA ne sono noti poco più di 700, questi 700 piccoli RNA di 20 nucleotidi sono in grado di regolare tutti i 25.000 RNA messaggeri che la cellula produce. Professor Negrini, questo è veramente il grande mistero del DNA e quindi di questo mistero, ma anche di altri misteri, ne parleremo nel proseguo della trasmissione. Adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi ricominciamo a parlare dei microRNA e delle ricerche ad essi associate. We lay in the glow of the neon city lights, eyes on the wall, through another sleepless night. I just wanna be alone again. I'm remembering I was a wreck when we met at the dollar store. I should have just made a run for the exit door. I was into you, but now I'm in too deep. I was over my head, but you said that I'm safer in your arms. I was over my head, so I fled to comfort of your charms. I guess at the time you were so idealized. Now in the light of the day I realize I was into you, but now I'm in too deep. And now I think that it is sad that I had to get tangled in the wires of your snare. I don't care if you go. don't care if you go. Allora, professore Grini, stiamo parlando dei cosiddetti microRNA. Esattamente quando sono stati scoperti? Ma allora, in realtà i microRNA sono stati scoperti parecchi anni fa, quasi scoperti, lei pensi, nel 1993, però sono stati scoperti in un nematode, cioè in un piccolo verme, il Cenorhabditis elegans, che i genetisti conoscono molto bene perché è un loro modello di studio piuttosto molto utilizzato. E per fino all'inizio degli anni 2000 si pensava che l'unico microRNA scoperto in questo nematode fosse una situazione molto peculiare. Invece all'inizio degli anni 2000 si è scoperto che i microRNA esistono non solamente nel nematode, ma esistono anche nelle piante, negli animali e anche nell'uomo. Quindi la scoperta e l'esplosione degli studi sui microRNA è di fatto iniziata, direi, nel 2001-2002. Effettivamente questi microRNA quanti sono all'interno dell'uomo, quanti sono all'interno delle piante? Perché ci sono dei numeri addirittura che fanno spavento, considerando il fatto che i microRNA in realtà qualche tempo fa, quando c'erano i vecchi libri di biologia, addirittura non erano neanche citati perché effettivamente non erano neanche conosciuti. No, non erano affatto conosciuti nell'uomo oggi invece sono noti circa, forse qualcuno in più, ma circa 700 microRNA, e questo numero, insomma, relativamente piccolo di queste molecole è in grado di svolgere delle funzioni regolative che sono importanti in moltissimi processi biologici, come lo sviluppo, il differenziamento, la morte cellulare, la proliferazione cellulare, e questo li rende particolarmente attraenti sia dal punto di vista della ricerca di base sia dal punto di vista delle ricerche applicative. Professore Grini, visto che lei stava parlando un po' della funzione di questi microRNA, che è poi l'argomento chiave della trasmissione, esattamente, le faccio una domanda molto banale, però gliela devo fare: a che cosa servono questi microRNA? Allora, facciamo un passo indietro per cercare di rendere più chiaro questo concetto. Certamente. Il concetto base della biologia è che il DNA contiene il nostro materiale genetico, che questo materiale genetico codifica per delle funzioni proteiche, che sono i veri e propri operatori, cioè le proteine sono quelle che fanno funzionare la cellula, che sono però codificate nel nostro materiale genetico, il DNA. Per passare da DNA a proteine è necessario che il DNA venga trascritto in RNA, in particolare in RNA messaggeri, che vengono poi tradotti in proteine. Questo è quello che si chiama il dogma della biologia: da DNA si passa a RNA, si passa a proteine. Allora, cosa fanno i microRNA che non codificano per proteine? I microRNA regolano quanta proteina può produrre ogni RNA messaggero. La fermo un attimo, quindi effettivamente sì. I microRNA, diciamo che sono i capi dei mRNA, quindi degli RNA messaggeri. Sono dei controllori che dicono al messaggero di produrre tanta proteina, o meglio, non dicono di produrre tanta proteina, dicono di produrne un po' di meno, tanto di meno, oppure non produrne affatto, perché sono solo dei regolatori negativi, cioè non sono in grado di dire al messaggero di fare tanta proteina. Il messaggero farebbe la proteina, ma in presenza di un microRNA che bersaglia quel messaggero, la proteina non viene fatta oppure ne viene fatta poca. Quindi questa è la loro funzione, diciamo così, biologica. Modulano quanta proteina un messaggero può fare. Senta, tornando un attimo all'argomento del DNA, sappiamo che un altro dogma della biologia è che nel DNA c'è una parte codificante e una parte non codificante. La parte tra virgolette non codificante è il junk DNA, il famoso junk DNA, il DNA spazzatura, quello che sembra non fare niente. Ma effettivamente quale funzione hanno i microRNA sul junk DNA? Il junk DNA è una terminologia che è stata utilizzata per sul DNA per dire che esiste nel DNA una parte, anzi direi la stragrande parte, oltre il 95, per non dire il 98% del nostro DNA non codifica per proteine, quindi lei si immagini. E secondo la mia opinione, modesta opinione, è che questo junk DNA possa non essere veramente DNA spazzatura, ma possa in realtà svolgere delle funzioni. Il problema è che ancora oggi noi non sappiamo quali possano essere queste funzioni. È plausibile che nel corso dell'evoluzione il DNA spazzatura o junk DNA si sia accumulato durante l'evoluzione, però all'interno di questo DNA non codificante troviamo anche ad esempio i microRNA, che non sono codificanti per proteine, ma la cui funzione invece è assolutamente fondamentale per tutte le funzioni biologiche della cellula. Possiamo dire insomma che in biologia niente viene buttato? Beh, direi che per quanto riguarda per esempio molti genomi più semplici rispetto a quelli dell'uomo, per esempio i genomi dei virus, i genomi dei batteri, eccetera, nulla viene buttato, nel senso non c'è niente che non serva a qualche cosa, neanche un nucleotide non serve a qualche cosa. Nel DNA umano questo è molto meno chiaro, perché molto meno chiare sono le funzioni proprio di questo DNA non codificante. Al momento queste funzioni sono largamente sconosciute, quindi la scoperta, quello che però si sa, e quindi questo suggerisce che il junk DNA possa effettivamente avere una funzione, è che la stragrande maggioranza di questo DNA viene trascritto, cioè viene trasformato in RNA, le cui funzioni non sono del tutto chiare. Oggi abbiamo chiarito a che cosa servono i microRNA, ma ce ne sono moltissimi altri di RNA non codificanti la cui funzione è completamente ignota. Perfetto, professor Negrini, adesso ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo musicale, poi torniamo in studio. Quando torneremo in studio parleremo un po' a che cosa ci serve trovare alcuni microRNA all'interno del sangue, quindi il fatto che alcuni microRNA trovati nel sangue siano, come dire, dei marker per possibili tumori che ci sono nel corpo umano. Situations made it and they all changed. Professor Negrini, siamo ritornati in studio. Con lei volevo parlare un attimo di un'ultima ricerca, una delle tante ricerche uscite in quest'ultimo periodo, che è uscita peraltro su Molecular Pathology nel numero di settembre, e identifica 4 microRNA, il microRNA 21, il 210, il 155 e il 196A, che in teoria sarebbero responsabili del tumore al pancreas. Ora, questa non è una novità, perché in realtà si sa che alcuni microRNA sono responsabili di alcuni tumori, ma perché trovare alcuni microRNA nel sangue è, come dire, un'indicazione che ci potrebbe essere una predisposizione o un tumore all'interno del corpo umano? Dunque, anche qui faccio un piccolo passo indietro, nel senso che i microRNA, proprio per la loro funzione regolatoria, sono essi stessi regolati in maniera molto fine dalle nostre cellule, per cui ogni nostra cellula normale esprime una certa quantità del microRNA, faccio un esempio, microRNA 1, del microRNA 5, del microRNA 21, 210, quelli che lei mi ha citato. Quello che però è dimostrato in moltissimi lavori scientifici è che nei tumori vi sono dei microRNA, e tra questi il MIR21, il 210, il 155 che lei ha citato, che vengono espressi molto più rispetto alla norma, rispetto a quanto dovrebbero essere espressi. Che cosa vuol dire essere espressi? Cioè, ce n'è una quantità maggiore. Dovrebbero esserci, diciamo, nella cellula normale è espresso, cioè la quantità di questi microRNA, diciamo, per intenderci, è a livello 10. Nel tumore di quel tessuto, anziché essere a livello 10, è a livello 100, quindi ce n'è molto di più, e questo è un meccanismo che è stato studiato per alcuni microRNA, per diversi microRNA è stato studiato, e che ha dimostrato che i microRNA possono avere un ruolo nella patogenesi tumorale. Poiché questi microRNA sono espressi, cioè vengono prodotti in maggior quantità nelle cellule tumorali, è possibile, ed è così avviene, che dalle cellule tumorali poi o che si sfaldano, che si rompono, oppure che vanno in circolo, questi microRNA si trovino anche nel nostro sangue. Quindi trovare nel nostro sangue livelli più elevati di questi microRNA è un indice del fatto che questi microRNA sono più espressi, ad esempio, in una cellula tumorale, come in questo caso in una cellula tumorale pancreatica, e quindi è un'indagine, diciamo così, non invasiva, che può essere fatta direttamente sul sangue periferico di un individuo per evidenziare la presenza potenziale di neoplasie. Professor Negrini, la domanda è abbastanza banale, ma anche questa gliela devo fare. Questo potrebbe essere una prova che effettivamente c'è una predisposizione genetica per avere un particolare tipo di tumore? No, questo non ha alcuna relazione con la predisposizione genetica. Al momento non vi è evidenza che la presenza di questi microRNA in sangue periferico possa essere un'indicazione di predisposizione genetica. La predisposizione genetica ai tumori è legata, per quanto se ne sa oggi, a specifiche mutazioni geniche che vengono trasmesse dai genitori ai figli, e che riguardano una piccolissima percentuale di tumori nell'uomo. Per la verità, e in questo senso voglio, come dire, cautelarmi in questo, per la verità la possibilità che i microRNA stessi possano svolgere, attraverso delle mutazioni, possano svolgere un qualche ruolo nella predisposizione è un campo che è ancora largamente inesplorato. Senta, professor Negrini, io cito un attimo una cosa che aveva detto lei. Ha detto che nel corpo umano ci sono, almeno sono stati trovati, circa 700 microRNA. ma effettivamente si dividono in alcune famiglie questi microRNA, oppure tutti fanno la stessa cosa e no, in qualche modo fanno, diciamo, sono copie l'uno dell'altro? No, i 700 microRNA sono ognuno diverso dall'altro, quindi ognuno di questi microRNA svolge una funzione diversa. Faccio un esempio per cercare di essere più chiaro. Per esempio, un microRNA, il microRNA 21 o il microRNA 210 di cui abbiamo parlato prima, il microRNA 21 è in grado di riconoscere e legarsi, quindi regolare l'espressione di un centinaio di messaggeri. Il MIR-210 riconosce e regola anche lui 100 messaggeri, ma i 100 messaggeri dell'uno e dell'altro sono diversi, quindi alla fine i geni che vengono regolati dai microRNA sono da ciascun microRNA è diverso e i geni sono regolati, sono specifici per ciascun microRNA, per cui nei 700 microRNA possiamo aspettarci circa 70.000 eventi regolativi, che sono molto più dei geni che codificano proteine che il nostro genoma contiene. Quindi per questo dicevo che essenzialmente nel complesso questi 700 microRNA sono in grado di regolare tutti i 25.000 geni, i 25.000 geni codificanti proteine che sono presenti nelle nostre cellule. Professor Negrini, voglio fare un'ultima domanda. Lei lavora all'Università di Ferrara presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale. Quali sono le ultime patologie su cui avete impattato studiando proprio i microRNA? Beh, noi stiamo lavorando sugli effetti, direi, dei microRNA sia in leucemie che in tumori solidi. In particolare, più recentemente, diciamo gli ultimi studi più recenti riguardano per esempio i tumori epatocellulari, e il tumore epatocellulare è un tumore che oggi non ha una terapia, e in questo senso i microRNA possono diventare essi stessi o dei sistemi terapeutici, cioè essi stessi, essendo delle piccole molecole, possono essere usati anche come farmaci, oppure essere bersaglio di piccole molecole e quindi essere bersaglio di farmaci. E ci sono dei risultati interessanti fatti da noi nell'epatocarcinoma e sull'impiego di piccole molecole che vanno a modulare microRNA. Ci sono studi fatti da diversi altri gruppi al mondo che dimostrano la fattibilità di questo approccio. Sarebbe molto interessante, molto utile veramente trovare nei microRNA non solo degli strumenti conoscitivi delle basi molecolari del cancro, ma anche addirittura degli strumenti terapeutici. Professor Negrini, io intanto la ringrazio per aver partecipato a Cacciafotone, saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è come al solito sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, e come al solito l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie ancora, professor Negrini. Grazie a lei.